ci hanno raggiunto i nostri ospiti live, che sono anche gli autori della canzone che ci stiamo ascoltando, Soleil Noir, dei Dope & Handel, che sono in studio con noi, quindi innanzitutto li salutiamo. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, ragazzi, vi chiedo innanzitutto se avete voglia di presentarvi, chi sono i Dope & Handel, e partirei anche un po' dal nome del vostro duo, perché vi chiamate così. Ok, allora, siamo Chiara e Etienne. Perché Dope & Handel? Perché il double game, come la doppia faccia, no? Come abbiamo diversi universi, siamo molto ispirati, ci ispiriamo al cinema e agli anni 80, che vuoi dire? No, mi voglio dire che prima di tutto, scusa per il mio pessimo italiano, quindi, vabbè, innanzitutto, quindi non parlere molto, va a essere chiara che parlare per me. Okay. Purtroppo noi non siamo delle interpreti molto, non possiamo aiutare, secondo me possiamo un po' venirci incontro, sì, e porteremo a casa questa mezz'ora, perché voi sarete con noi questa mezz'oretta, e tra l'altro vi esibirete questa sera al Circolo Dev, sì, che sarà la quarta tappa del tour italiano, che è iniziato il 1° aprile, il tour Amore al Dente. Sì. Come nasce questo tour e come nasce questo titolo anche? Allora, abbiamo conosciuto Alessandro Piccioni, che è un booker sotto la piattaforma Groover, e gli è piaciuto il nostro brano, e allora abbiamo fatto conoscenza e non hai trovato tutte queste date, come diciamo 10 date in 12 giorni, è un vero marathon per noi. Sì, sono tantissime. Sì, e così non lo abbiamo già visto a Alessandro, però lo ringraziamo molto. Certo. E all'interno di questo tour voi presenterete anche il vostro EP Observe. Sì. E Obverse, scusate. No, Obverse. E avete voglia di raccontarci un po' di questo EP? Il primo EP per noi, lo abbiamo fatto durante il Covid. Finalmente abbiamo lavorato a distanza durante 3 mesi, e finalmente lo abbiamo uscito, e abbiamo fatto dopo un crowdfunding, mm-hmm, si dice in, sì, italiano? Sì, una raccolta fondi, sì, sarebbe, per promozionare questo album, primo album, e come hai 5 canzoni dentro. E Acqua Fresca è la canzone italiana, che ce la ascolteremo tra l'altro. Sì, okay. Dopo, magari di questa ne parliamo dopo. Okay. E se doveste descrivere questo vostro album, che cosa lo caratterizza? È positivo, sì, molto ottimista, energetico. Sì, energetico. Tratta di soggetti un po' sombri, neri. Non so come si dice, black, dark subjects, okay. Some dark così subjects, si like capisce. Love, ok, when you're heartbroken or tematiche profonde. Sì, sì, sì. Ok, sì, però sì. Però di una maniera joyful, maniera, ok, una maniera, sì, più felice, sì, più positiva. You Can Force Someone to Love You, dei Dope & Handel, che per chi si fosse connessa o connesso in questo momento, sono in live studio qua con noi. Ragazzi, tra l'altro questo brano è il singolo che ha presentato anche il vostro album. Come raccontate questo pezzo? Come è nato? Allora, per la piccola tell everyone, storia, ho amato una persona che non mi amava, gli ho detto, e non era reciproco. Allora, quindi è così, non puoi costringere sì, qualcuno ad amarti, e sì, così. With money, certo. Sì, è nato così, è nata così. Tra l'altro sentivo che durante il pezzo c'è, mentre tu canti, Chiara, c'è una doppia voce, sei sempre tu che... Sì, quindi... sì. Vi siete registrati più. Oh, è mi voce. E come organizzate poi i vostri set, i vostri live? Come si svolgono poi sul palco? Allora, abbiamo Luce? Mm-hmm. Luci sincronizzate alla musica. Allora, e dura come 1 ora e 20. È molto energico, si balla facilmente è ottimista. I think you said è carico. We try to make immersive live, so there is a lot of lights and lightning, very strong lights. Ok, e Tien dice che cercano un live un po' immersivo, di creare questa atmosfera in cui la gente si possa immergere all'interno. E di tutto questo tour italiano, una delle cose che più caratteristiche sono anche le location, perché questa sera vi esibirete all'interno di un circolo, quindi di un live club, però vi esibirete anche poi in gallerie d'arte, anche in un teatro. Vi chiedo se è voluta questa scelta. Non veramente. Yes, it was planned since 1987. No, it's only Alessandro. Alessandro ma ha trovato very original places. E come cercherete di collegare la vostra musica a quegli spazi? Cioè, non lo faremo. No. No. Penso che non lo faremo. Però. Ok. Però ci sta anche introdursi in quello spazio e portando anche qualcosa di che magari rompe. Sì. Quindi magari ne uscirà davvero qualcosa di davvero particolare. Sì. But I've seen that in the galleries the it's often that they make music, strong music, and it's not a gallery very soft and quiet. Sì, è un bel contrasto in posti in cui magari la musica si tiene sempre bassa e resistente. Portare un live si può fare. Si può fare e lo farete. Vorrei chiedervi quali saranno le vostre prossime tappe di questo tour. Allora, andiamo a Montefano, al Teatro della Rondinella, domani. E dopo alla Indigo Art Galleria Gallery in Perugia, il 8 suoniamo a Roma al Klang, il 9 a Bari al Jackstore Social Club, il 10 a Taranto al Mercato Nuovo e finalmente il 12 al Fat Art Club di Terni. Direi sì, una bella maratona in 12 giorni, 10 serate, sono davvero tante. E dopo l'Italia avete anche altre date internazionali? No, internazionali, in Francia. In Parigi, Blois è una città vicino Orléans. E ho festival come che si chiama Amapola, che è un festival femminista e per ora sta tutto bene, direi che comunque mi sembra un ottimo calendario ricco. Prima di lasciarci con l'ultima canzone che l'hai citata tu prima, Chiara, Acqua Fresca, vorrei chiedervi anche il perché di mischiare anche un po' le lingue. Voi cantate anche in inglese, francese, italiano, avete contaminato un po'. Per avere tutto il pubblico possibile. È solamente commerciale. No, perché italiano, perché ho origine italiana e anche Etienne, finalmente il suo nome. Non parlo italiano perché mia famiglia è italiana. Ma e ancestro. come dire, grandparent? Nonni. Mio nonno. Ok. Nonni. Suo nonno erano italiani.